nella morte del Signore, per rivivere il mistero del Golgota. Adattamento e rielaborazione testi a cura di Mario Cutuli. Voci di Mirko Cavallin, Sara Binaschi e Roberto Mazzarolo. La via della croce è la memoria dell'amore di Dio per l'uomo, la storia di una morte voluta per restituire all'umanità la gioia dell'amore e della pace. Un progetto troppo grande per gente che si era persa per strada appena messo piede sulla terra, consumando una mela maliziosa, vendendosi per un piatto di lenticchie, inventandosi un dio vitello d'oro di comodo, nella logica di interessi immediati e di un benessere di tasca. Cristo volle spiegare e testimoniare tale amore, vivendolo nei fatti del giorno, anche in quelli che si vorrebbe non accadessero mai, i più difficili da consumare, come la morte. Ripercorrere la via del Calvario, soprattutto nella settimana che la liturgia definisce santa, è l'occasione per cogliere il significato autentico della memoria del funerale di Dio fatto uomo. È recuperare un'attenzione non rituale né retorica nei confronti di situazioni di povertà morale e materiale. È riflettere sulla coerenza del nostro stile di vita all'insegnamento di un messaggio che si consuma su una croce. Vogliamo risalire con la mente e con il cuore la collina del Golgota per fermarci a contemplare la croce gloriosa di Cristo, per sollevare gli occhi da ciò che è contingente. La croce è il vessillo di un regno che non è di questo mondo. È la bandiera di chi vince la morte, lo strumento, ci dice Paolo, per riappacificare gli esseri della terra e quelli del cielo. La croce è la sintesi delle sofferenze del mondo. È la misura della bontà di Dio verso l'uomo. Contemplare la croce è conoscere il vero volto di Dio e il vero volto dell'uomo. È adorare la verità. La verità non ha né bellezza né splendore, non tollera attributi. Annunciamo Cristo crocifisso perché non c'è altra verità così eloquente eppure misteriosa, quella di un Dio che si fa debole e muore su una croce. È un gesto di verità adorare un crocifisso, perché significa ammettere quanto noi rifiutiamo la debolezza e quanto Dio la faccia sua. È umano rifiutarla, ma divino assumerla. È inutile cercare Dio, vano tentare di conoscerlo escludendo la croce. Solo essa ci rivela il volto di Dio. E solo alla luce di Cristo crocifisso si illumina il volto dell'uomo. Sono ancora tanti, in ogni angolo del mondo, a percorrere, innocenti come Cristo, la via del Calvario. Siamo ancora in tanti a non sapere o non voler fare i Cirenei e ad essere più poveri del peccato. Dovremmo riflettere sulle nostre negligenze che impediscono a tanti fratelli di conoscere la gioia della resurrezione dalla povertà denunciata nella grotta di Betlemme e che spesso ci limitiamo a imprigionare nel presepio, anziché combatterla. Dovremmo imparare a cercare Cristo non al sepolcro, ma sulla strada di Emmaus, dove la presenza di Cristo è visibile nella sofferenza di tanta gente che giace lungo le strade, vittima della violenza e dell'egoismo e condannata alla crocifissione per mancanza di buoni samaritani. Non giova bloccarsi sulla strada del Calvario per piangere e commuoversi come di fronte a una telenovela. Disse loro Pilato: «Che farò dunque di Gesù, chiamato il Cristo?» Tutti gli risposero: «Sia crocifisso». Ed egli aggiunse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora urlarono: «Sia crocifisso!» Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Il castigo dell'uomo si è abbattuto su Dio. Gesù è condannato a morte. Sia crocifisso. Questo grido, moltiplicato dalla cieca passione della folla, strana liturgia della morte, risuona lungo la storia. Un Dio strano, che nasce in una notte buia, povero tra i poveri, in una culla adibita a mangiatoia, che si circonda di genitori di paese, che non rivela se stesso nella forza, ma nella debolezza. Thank you. Allora i soldati del governatore condussero Gesù al pretorio e gli radunarono attorno la corte. Spogliatolo, gli fecero indossare un mantello scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve Gesù, re dei giudei!» E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percossero sul capo. Dopo averlo così schernito, gli tolsero il mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Gesù, la derisione stranamente ti consacra. Eccoti rivestito della porpora dei re, la testa incoronata, lo scettro in mano. Ma la porpora è quella del tuo sangue e del sangue innocente che scorre in tutto il mondo. La tua corona è fatta delle spine che fa crescere il suolo maledetto a causa dei nostri peccati. Lo scettro è una canna che trafigge la tua mano. Eppure, senza saperlo, coloro che ti scherniscono dicono la verità. Tu sei il re dei giudei. Con il peso della croce, ludibrio della gente, Gesù si avvia al Golgota, là dove l'amore totale per la creatura lo aveva condotto. Ora, su quella croce si consuma tutto l'amore di cui un Dio è capace. Non l'amore dettato dal calcolo, non quello che risolve nell'egoistica convenienza, ma quello totale, che non cerca ricompensa e gratifiche. Per il cristiano la vita si realizza nell'amore. Cristo crocifisso è la rivelazione definitiva di Dio, la vera epifania dell'amore. Ma Cristo crocifisso ci rivela anche chi è l'uomo. È uomo veramente solo chi dà la vita per gli altri e per Dio. Quando a 30 anni si offrì alla passione, compiendo l'opera per cui era nato, come un agnello immolato, fu innalzato sul legno della croce. Sono diventato l'obbrobrio dei miei nemici, il disgusto dei miei vicini, l'orrore dei miei conoscenti. Chi mi vede fugge. Sono caduto in oblio come un morto. Sono diventato un rifiuto. Ora il Calvario è più vicino e tutto il dolore del mondo si concentra in questo percorso di dolore che porta al Calvario. In questo snodarsi di momenti di sofferenza che culmina nell'umiliazione della croce. E in questo percorso, in questa via crucis così ricca di allegorie, c'è posto per tutti. C'è il protagonista, l'uomo Dio umiliato e sofferente, offeso, la perfetta raffigurazione del fratello emarginato e straziato, il povero, il terzo mondiale, il profugo su vecchie carrette di mare che si trasformano in sarcofaghi, i milioni di bambini che non hanno mai conosciuto l'infanzia serena, il giovane che non riesce a scorgere un futuro, il disoccupato e la sua disperazione, il vecchio, fragile e abbandonato. C'è Pilato, il potere, con le frequenti scelte demagogiche, con la mistificata tracotanza di chi amministra senza giustizia. C'è la moltitudine curiosa e rumorosa, che assiste al dramma dell'uomo Dio umiliato, insensibile, chiusa in una gretta ed egoistica apatia che l'impedisce di vedere l'esistenza dolorosa e le lacrime di chi chiede, anche con il silenzio, giustizia. Ma c'è anche chi rifiuta gli stereotipi della folla, ha il coraggio delle proprie azioni e ignora il giudizio della gente, della cosiddetta opinione pubblica, delle convenzioni sociali, pronta a soccorrere il fratello. Sono la Veronica, le donne di Gerusalemme, l'umile Cireneo. Ci sono, ma la loro presenza resta sullo sfondo, gli apostoli, molti dei quali sono fuggiti, e gli altri che si sono mascherati tra la folla. C'è Pietro che l'ha addirittura rinnegato più volte, rendendo ancora più amaro il dramma dell'uomo Dio ormai definitivamente solo. C'è infine Maria, trafitta nel cuore, senza nemmeno la forza di piangere. C'è chi vive la disperazione della morte del figlio ammalato, ammazzato in guerra. Ci siamo tutti in quella Via Crucis. Occorre solo lo sforzo di cercarci e rivedere il nostro agire, mentre si consuma il dramma del fratello maledetto da tutti, del quale anche noi, con la nostra indifferenza, possiamo essere carnefici. Sotto il peso della croce, Gesù, schernito, escluso, umiliato, gravato dal peso di tutte le nostre croci, tu cadi e ti rialzi per andare fino a quelle piaghe mortali che guariranno le nostre piaghe. Cadi più giù di tutte le nostre cadute, per frapporti per sempre fra noi e l'inferno del vuoto, tra noi e il nulla perverso. Nel silenzio allora nasce la speranza. Nella tua umiliazione non c'è altro che l'amore folle che vince. Tu, che non hai creato né il male né la morte, li accogli come servo sofferente per dare a noi lo spirito che li vince. Il dolore di chiunque soffre oggi nel mondo ti fa inciampare e cadere. Ora tu conosci veramente l'uomo. Ogni uomo smarrito in una strada cieca, la sua, egli crede, soltanto sua, strada verso il nulla che presto lo inghiottirà. Tu percorri il cammino delle nostre solitudini, dei nostri omicidi, delle nostre idolatrie, e ti fai cammino di perdono. Nell'incontro quotidiano che noi facciamo con le nostre croci, quando giunge lo scoraggiamento e l'amarezza e la ribellione, quando la disperazione oscura il presente e sembra precludere il futuro. Dal profondo, Signore, gridiamo il tuo nome. Dalle strade del mondo vogliamo tornare a te. Dal profondo, Signore, gridiamo il tuo nome. Solo in te la vita risplende. Poi, lungo la via, Gesù incontrò la madre. Simeone parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Maria serbava tutte queste cose nel suo cuore. La croce di lui diventa la croce di lei. L'umiliazione di lui è la sua. L'obbrobrio pubblico diviene quello di lei. È l'umano ordine delle cose. Così lo debbono sentire coloro che la circondano e così lo coglie il suo cuore. A te pure una spada trapasserà l'anima. Le parole dette quando Gesù aveva 40 giorni si adempiono in questo momento. Esse raggiungono ora la pienezza totale e Maria va, trafitta da questa invisibile spada, verso il Calvario di suo figlio, verso il proprio Calvario. Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi. Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi. Quanto hai udito che tu non saresti più sola. Maria, donna forte e lucida, il tuo consenso ha liberato la nostra libertà. Senza di esso, malgrado la fervida attesa del Padre, il Verbo non avrebbe potuto incarnarsi. avvenga di me quello che hai detto. Lo Spirito allora è potuto scendere su di te, prima Pentecoste, ed echeggiare il cantico dei cantici, quello della storia e quello dell'universo. Maria, tu eri una giovanissima ragazza di Galilea. Non potevi capire tutto, e il tuo volto diventava serio e dolce quando in silenzio meditavi su tante meraviglie. Forse più tardi hai dubitato nella tua preoccupazione di madre. Eppure si imponeva l'evidenza del compimento delle profezie, perché Dio spiega la potenza del suo braccio e ricolma di beni gli affamati. Allora tu hai seguito Gesù sul cammino della croce, una spada nel cuore. Certamente piangevi, ma Lui ti ha consolata. Io vorrei tanto sapere da te se quando era bambino tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo. Con il salmista ti sussurra: trattieni la voce dal pianto, i tuoi occhi dal versare lacrime, perché c'è un compenso per le tue pene. Quelle stesse parole consolano chi, in quel dramma che si consuma lungo la via, si accompagna a Maria, quelle donne che piangono su Gesù, che non sanno lasciare una madre al suo dolore. Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Mentre lo conducevano verso il luogo del Golgota, costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. «Chi non prende la sua croce e non mi segue, dice il Signore, non è degno di me. Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo spirito, correggetelo con dolcezza. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Non sei solo, Gesù. Ora accanto a te, pronto a sostenere la tua croce, c'è il Cireneo, inconsapevole strumento della redenzione. Quella croce che salva la porta anche lui. Nessuno sa niente di lui. Forse è un esiliato tornato in patria, forse un contadino, forse uno di quei poveri che vengono disprezzati perché non conoscono bene la legge. Torna dai campi, non sa niente del dramma che si svolge. Il soldato romano lo nota perché ha le braccia robuste, le spalle larghe e perché fa parte di quegli straccioni che ci si sente autorizzati a trattare da schiavi. E Simone, il cireneo, obbedisce perché bisogna obbedire. Prende su di sé il patibolo dell'uomo sfinito, uno straccione come lui, ancor più sfortunato, un bandito o un sobillatore. Forse uno scambio furtivo di sguardi ha aperto il suo cuore alla compassione, in questo caso una passione veramente condivisa. Così talvolta il destino ci interpella, una croce ci è imposta, un grido di aiuto al quale non si può sfuggire o la disperazione di un amico. Come non rinnegare allora immediatamente il nostro personaggio irrisorio, le nostre occupazioni irrisorie e portare questa croce improvvisa con una cieca fiducia? Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Cristo Salvatore del mondo. Venite, adoriamo, venite, adoriamo, adoriamo la tua croce, Signore, e lodiamo e glorifichiamo la tua santa risurrezione. Dal legno della croce è venuta la gioia del mondo. Giunti ad un luogo detto Golgota, gli diedero da bere vino mescolato con il fiele. I soldati, poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora, quella tunica era senza cuciture, tessuta tutto d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamola a sorte a chi tocca». Così si adempiva la scrittura: «Si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla tunica han gettato la sorte». Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento. Dio mio, ti invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu abiti la santa dimora, tu, lode di Israele. In te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati. Ma io sono verme, non uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano, perché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta. Dio mio, Dio mio. Dopo averlo crocifisso, sedutisi, gli fecero la guardia e al di sopra del capo posero la motivazione scritta della sua condanna. Questi è Gesù, re dei Giudei. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo sua madre e lì accanto a lei il discepolo che amava tanto, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lama sabattani!» Che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» E Gesù, emesso un alto grido, spirò. La luce brilla nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. È la luce che redime, che riconcilia il finito con l'infinito, l'uomo con Dio, la morte del peccato con il trionfo della vita. Gesù muore in croce, ma l'uomo, il peccatore, l'Adamo disubbidiente, rinasce a vita nuova. È questo il mistero profondo di quella morte sul Calvario, dell'assassinio di un Dio che aveva deciso di sposare la condizione umana per intero, tranne che nel peccato. L'agnello sgozzato, immolato su quel Golgota, riassume tutte le miserie dell'uomo, tutte le sofferenze dei figli di Eva, tutte. Addossandoseli, Dio cancella tutti i mali di chi l'aveva offeso, rendendosi perciò nemico. Ora la sofferenza ha un senso, il dolore un premio, l'infelicità una ricompensa eterna. Maria, vieni a casa mia. mia casa. Madre, il tuo d'onore entrerà nella mia casa. Madre, io ti onorerò con tutta la mia vita. Madre, sei il più grande dono del mio Signore. Davanti alla tua croce, Signore, deponiamo il nostro fardello pesante di sofferenza e disperazione. Lo abbiamo riempito lontani da te, seguendo la nostra presunzione e i nostri sentieri piuttosto che i tuoi. Ti preghiamo per tutti gli ammalati del mondo, per quelli che sono curati negli ospedali, ma soprattutto per coloro che sono abbandonati e senza cure. Per tutti i moribondi che oggi lasceranno questo mondo, per gli sposi che non si amano più, per i genitori rifiutati dai figli, per tutti i bambini abbandonati, per gli anziani confinati nei ricoveri. Ti preghiamo per coloro che non hanno mai sperimentato la gioia di essere amati o che non hanno trovato corrispondenza, per tutti gli uomini e le donne che sono rimasti soli per non aver incontrato la persona con la quale condividere la vita. Ti preghiamo ancora per tutti coloro che soffrono a causa della guerra, per i mutilati che portano nella loro carne per una vita intera i segni della violenza. Ti preghiamo per tutti i popoli che nella storia dell'umanità sono stati sfruttati, tenuti in schiavitù, per tutti gli uomini che soffrono discriminazioni a causa del colore della pelle, della loro religione, dei difetti fisici, della loro ignoranza o povertà. Ti preghiamo per tutti gli oppressi perché siano liberati e per tutti gli oppressori perché si convertano e vivano. Ti preghiamo per i milioni di persone morte per la giustizia. Il loro sacrificio non sia inutile. Per quelli che non hanno il pane quotidiano e devono andare a dormire a stomaco vuoto. Ti preghiamo per tutte le mamme del mondo che hanno visto i loro figli morire senza poter fare nulla. Per i profughi sparsi nel mondo, costretti a vivere lontani dalla loro patria e dalle famiglie. Per i carcerati che soffrono l'isolamento e la solitudine e che portano su di sé le loro colpe ma anche quelle di tanti altri. Ti preghiamo per tutti i giovani, vittime della disperazione e della solitudine, smarriti nei tanti paradisi artificiali, ma inconsciamente assetati di te, unica fonte dell'acqua che disseta. Accogli dentro le tue braccia aperte e distese nel legno santo della croce tutti gli uomini, li hai redenti con il tuo sangue, riscaldali col sorriso della speranza. Credo, mio Dio, che Cristo, agnello innocente, portò sulla croce i nostri peccati e che noi siamo stati redenti dalle sue piaghe. Credo che Cristo ha sofferto per noi lasciandoci l'esempio, perché anche noi seguiamo le orme di Lui. Credo che Cristo crocifisso pazzia per la sapienza di questo mondo e la potenza e la sapienza di Dio. Credo che accettando con amore la sofferenza, compio in me la passione di Cristo per la crescita del corpo di Lui che è la Chiesa. Credo che tutto coopera al bene per coloro che amano Dio. Credo che la nostra tribolazione momentanea e di breve peso ci procura uno smisurato peso di gioia. Credo che chi soffre con Cristo, con Lui sarà glorificato. Egli renderà il nostro corpo di miseria simile al suo corpo di gloria. Credo che chi muore con Cristo, con Lui pure risorgerà. Credo che Dio farà cieli nuovi e terra nuova, in cui asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. E allora la morte non ci sarà più, né lutto né pianto ci saranno più. Credo che vedremo Dio faccia a faccia.